Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti, siamo pronti per una nuova puntata di Obiettivo Salute insieme a voi e con noi oggi il professor Giuseppe Remuzzi, direttore dell'Istituto di Ricerca Mario Negri. Buongiorno professore, bentornato. Buongiorno a voi. Allora, professore, tutto sta andando come avevate pronosticato nello studio pubblicato su Lancet. E adesso che succede? Adesso succede che siamo arrivati al plateau. Intanto complimentoni. Abbiamo salito la montagna. Siamo arrivati a una parte della montagna che è piatta. Speriamo non ce ne siano altre di salite da fare. Come quando si va in montagna, avete presente, uno pensa di essere arrivato, poi c'è un'altra salita. Speriamo di no, siamo arrivati a un plateau, quindi a una situazione di stabilità che secondo i nostri calcoli dovrebbe durare da quando è iniziata, cioè dal qualche giorno fa, da 4-5 giorni fa, dovrebbe durare una decina di giorni. Già adesso stiamo vedendo una riduzione del numero dei casi che, se fosse consistente, ci farebbe sperare bene. I numeri non vogliono dire molto, perché i numeri di nuovi infetti in realtà sono i nuovi infetti che noi abbiamo trovato facendo i tamponi, ma ce ne sono molto di più che noi non sappiamo che esistono. Per esempio, proprio ieri è stato pubblicato un lavoro sul British Medical Journal che fa vedere che su 166 nuove infezioni, cioè tamponi positivi, che loro avevano identificato in Cina in 24 ore, guardando le persone che arrivano dalla Cina, il 78% erano asintomatici. Quindi abbiamo un numero enorme di persone infette e asintomatiche che noi non conosciamo. Quindi quando vediamo che cresce il numero di casi, cresce meno di quanto crescesse all'inizio. In realtà. Poi si è stabilizzato e questo è il plateau. Adesso vediamo che scende. La cosa che dovete guardare per vedere se le cose vanno bene sono i ricoveri e i letti in terapia intensiva. Perché questo è sicuro. Questo è un numero sul quale non c'è discussione. Se voi notate, il numero di ricoveri diminuisce. E ieri è diminuito, e che il numero di letti in terapia intensiva occupati diminuisce, allora vuol dire che siamo nella fase di discesa dell'epidemia verso il punto in cui non ci saranno più nuovi casi. Professor Remuzzi, ma secondo lei quando potremo ritenerci al sicuro? È molto difficile rispondere a questa domanda, perché potrebbe benissimo darsi che a un certo punto questo virus non si trovi più a suo agio nella nostra popolazione, vada da altre parti o scompare del tutto, come è successo per la SARS. Potrebbero mutare anche le condizioni geografiche che lo rendono, la temperatura, l'ambiente, il caldo. Noi non sappiamo molto di questo virus, o potrebbe non succedere. La cosa più probabile è che noi arriviamo verso la fine di maggio a zero nuovi contagi. Se stiamo attenti a fare delle misure che non siano quelle ancora di stare in casa per settimane o mesi, ma di muoversi con la mascherina, di stare soprattutto lontani l'uno dall'altro per un certo periodo, di evitare gli assembramenti, di andare magari al cinema, a teatro con la mascherina. Ecco, se facciamo queste piccole attenzioni, naturalmente, di lavarci le mani, tutto quello che ci hanno insegnato. Allora può darsi che questo virus ritorni nel prossimo inverno, ma a quel punto lì, col tipo di circolazione che suggerisce il lavoro del British Medical Journal di ieri, molta parte della popolazione sarà immunizzata e quindi il virus troverà grande difficoltà a fare i disastri che ha fatto quest'anno. sino ad ora. Professor Remuzzi, una delle domande che più ricorre, tra le altre, è quella relativa alla durata del periodo in cui la persona che è guarita dai sintomi del Covid resta infetta. Perché ci sono degli esempi di persone che si sono ammalate, sono guarite, stanno bene, ma a distanza di settimane non si sono ancora negativizzate. E allora, come si potrà affrontare questo problema che indubbiamente rappresenta un grave rischio per la persona, ma anche un rischio per la salute pubblica, considerato che la maggior parte delle persone si è ammalata al proprio domicilio e tra l'altro non tutti hanno fatto o potuto fare il tampone? Allora, la clinica di questa malattia è così chiara che si può fare diagnosi di persona ammalata di Covid indipendentemente dall'aver fatto il tampone. Sarebbe stato bello farlo, ma non è stato possibile farlo a tutti. L'hanno fatto sostanzialmente quelli che sono stati ricoverati in ospedale. Quando abbiamo la certezza che una persona ha contratto la malattia, e come ripeto, la diagnosi di questo è veramente facile, a questo punto dobbiamo avere due tamponi negativi perché la persona possa uscire ed essere tranquillo di non infettare gli altri. Sì. E idealmente dovremmo avere anche un test sierologico che ci dimostra che questo paziente ha sviluppato anticorpi contro il virus, quindi è protetto e entro certi limiti non è in grado di trasmettere il virus alle persone che incontra. Per essere certi che non è in grado di trasmettere il virus ci vorrebbe il tampone. Se vogliamo fare un compromesso, diciamo dopo 15 al massimo 20 giorni dall'inizio dei sintomi, uno fa il test degli anticorpi. Se gli anticorpi dimostrano ancora la presenza di anticorpi che hanno a che vedere con un'infezione recente, è meglio aspettare ancora un momento. Questo test dimostra la presenza di anticorpi di tipo IgM. Quando invece il test dimostra la presenza, è un test semplicissimo, di anticorpi di tipo IgG, che sono quelli che aumentano nel sangue a distanza dall'aver contratto l'infezione, allora si può essere ragionevolmente tranquilli di poter uscire di casa, non infettare gli altri e non correre rischi. Professor Remuzzi, può dare quindi un'indicazione però alle tante persone, ne parlavamo proprio ieri con il dottor Cricelli, che hanno si sono fatte un'autodiagnosi, quindi pensano di aver avuto il Covid, non hanno avuto la possibilità magari di fare il tampone e quindi adesso si domandano se e quando possono iniziare una ripresa. Sì, certo, questo è un grande problema. Io credo che ci vuole un piano nazionale che parta subito e che debba essere basata su questi, debba essere basato su questi test veloci che ti consentono di sapere se hai contratto l'infezione, se sei immunizzato da poco o da molto e quindi puoi ritornare al tuo lavoro, ritornare tra la gente con tutte le precauzioni di cui abbiamo detto. Questo però bisogna farlo. Ecco, questo bisogna farlo. Professore, vuole lasciarci un messaggio, una raccomandazione, un augurio, una riflessione che ci portiamo con noi, che condividiamo? Le regioni si stanno muovendo un po' ciascuna per conto suo. Purtroppo. Nucleo di crisi che si trova a Roma vorrà dare presto delle indicazioni che seguono anche le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità in merito al test più affidabile. Una volta stabilito qual è il test più affidabile, io poi penso che ciascuna medico di famiglia e ciascuna ATS, ASST, a seconda di come si chiamano, debba farsi parte diligente perché questo test possa essere fatto. Qualunque laboratorio lo può fare, è semplicissimo e davvero adesso per uscire dalla fase 2 dobbiamo mettere tutti in condizioni di uscire di casa. Quindi la partita si trasferisce sul territorio, che però si sta organizzando. Sì, si dovrebbe organizzare, abbiamo bisogno del via libera. Si dovrebbe organizzare. Della unità di crisi e del via libera delle regioni. Alcune regioni sono già partite, molti fanno per conto loro. L'Italia ha questa caratteristica di avere delle situazioni meravigliose, come a Trento, per esempio, dove c'è un direttore generale dell'ASL, super organizzato, che organizza tutto. se si facesse tutti come a Trento l'Italia non avrebbe problemi, e altre situazioni che purtroppo sono diverse. Ma noi, il nostro è un paese così, lo sappiamo. Sì, lo sappiamo. Chissà che il COVID possa cambiare, ma io non sono così convinto. Io penso che quando passa il COVID saremo tutti esattamente come prima. Quelli veloci, efficienti, bravi lo saranno ancora, quelli che hanno bisogno di 5.000 riunioni per prendere una decisione avranno bisogno di 5.000 riunioni. Insomma, io credo che non saremo tutti come Trento neanche dopo il COVID. Professor Remuzzi, l'aspetto presto. Intanto grazie per essere stato con noi. Buona giornata. Grazie, grazie a voi. Bene, in attesa della ripresa restiamo a casa e rispettiamo il distanziamento sociale. Questo è quello che possiamo fare, sapendo che naturalmente il nostro contributo può davvero fare la differenza, ce lo stanno ripetendo tutto e continuiamo a ripeterlo. Detto questo, per rendere meno gravoso il nostro isolamento, ho chiesto aiuto ad un grande esperto con il quale analizzeremo alcune criticità per trovare le alcune possibili soluzioni. In linea con noi, ve lo anticipo, che così già lo saluto, c'è Filippo Ongaro, che è stato medico degli astronauti presso l'Agenzia Spaziale Europea e che da qualche anno lavora come coach. Ciao Filippo. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, andiamo a sentire insieme le informazioni sul traffico, ritorniamo subito dopo insieme la nostra quotidianità. Individuiamo quei punti che in qualche modo noi riusciamo e potremmo riuscire a proprio mettere a punto, scusate la ripetizione, per migliorare la qualità delle nostre giornate. A tra poco. Obiettivo salute. Siamo tornati insieme a Filippo Ongaro. Filippo, restare a casa è fondamentale per arrestare il contagio, quindi per proteggere la nostra salute e quella degli altri, ma tutti noi ci stiamo rendendo conto a mano che i giorni passano che non possiamo vivere la giornata, improvvisarci, insomma, occorre anche organizzare e progettare il nostro tempo proprio per evitare di vivere la nostra casa come una sorta di prigione. Allora, con il tuo aiuto, iniziamo a prendere in esame le situazioni, le condizioni che possono rappresentare un fattore di rischio per il nostro benessere psicofisico. Ma sai Nicoletta, allora intanto devo dire che ovviamente più si allungano i giorni e più uno si rende conto che effettivamente deve tenere sotto controllo alcune variabili, perché qualche giorno è un conto, ma settimana e settimana è un'altra cosa. Due fattori principali secondo me sono non cadere nello sconforto e non cadere nella noia, che si portano dietro ovviamente delle conseguenze concrete. Penso nello specifico troppe ore davanti al computer, troppe ore davanti alla televisione, insofferenza nei confronti degli altri che ti stanno vicino per mancanza di spazi vitali, la cessazione di buone abitudini come per esempio l'attività fisica o un'alimentazione controllata. Ecco, credo che tutte queste cose ovviamente traggano la loro origine da un atteggiamento che è quello del lasciarsi andare. E io credo che qui sia anche importante, con le debite differenze, prendere spunto da persone che ci hanno lasciato tramite il loro lavoro delle indicazioni su questi fenomeni. Mi viene in mente Viktor Frankl, neuropsichiatra austriaco ebreo che fu nei campi di prigionia per diversi anni durante la guerra e che è un po' uno dei padri della ricerca sulla resilienza e che sosteneva che quando non puoi cambiare nulla, l'unica cosa che puoi veramente cambiare è il tuo atteggiamento interiore e l'approccio mentale che hai alle cose. Ora, qui certo, non ci stanno mettendo in un campo di concentramento, Nicoletta, siamo onesti, ci stanno chiedendo di restare nella nostra casa, che può essere difficile, ma insomma di fronte ad un'emergenza di questo tipo credo che sia una cosa che dovrebbe essere accettabile. Ecco, però il tema del cambiare l'atteggiamento interiore senza cadere nella noia, nello sconforto, nella frustrazione, senza pensare non ci sarà via di uscita, eccetera, è come si fa? Concentrandosi sui rituali e le abitudini della singola giornata, Nicoletta. Torniamo sempre lì. Costruire una giornata efficace porta poi a una settimana efficace, a un mese efficace, no? Certo. Si parte sempre dal fammi un giorno. Esempio, fammi un esempio, Filippo, perché poi vorrei con te proprio anche analizzare la giornata, perché l'equilibrio della giornata si ripercuote anche sulla qualità del nostro sonno. Quindi seminiamo certo. bene, organizzando proprio la nostra giornata, la nostra agenda, gli impegni, e poi sicuramente questa avrà anche delle ricadute sulla qualità del nostro sonno. Ma Filippo, dacci dei suggerimenti concreti. Che cosa vuol dire organizzare la giornata? Ma sai, vuol dire avere un senso di controllo su quello che ti accade. Tu stai parlando di sonno e mi sono reso conto anch'io dai miei social, dai contatti che ho con la mia community, che evidentemente ci sono tante persone che dormono peggio in questo periodo. E facciamo un esempio, cioè è chiaro che bisogna essere informati e capire che cosa sta accadendo, non significa però dover vedere ogni secondo minuto un telegiornale per sentire le notizie e farsi venire l'ansia. Questa è una grande differenza tra ascolto le notizie per capire cosa accade, oppure entro in un meccanismo semiautomatico in cui in termini di informazioni non ci guadagno nulla, ma in termini di ansia che mi generano sicuramente sì. La stessa cosa per quello che riguarda, per dire, il futuro economico, no? Che preoccupa un po' tutti. Ecco, pianificare come faremo a ripartire, ognuno per quello che riguarda la propria attività ovviamente, ti dà un senso di controllo in più che semplicemente sentire le notizie che ti dicono che ci sarà un'enorme crisi economica. Chiaramente sono due questioni molto sottili, perché tutti dobbiamo capire che cosa sta accadendo, ma non dobbiamo diventare vittime però di una situazione che non riusciamo a gestire, che è diciamo che parte da un'informazione che vediamo e interpretiamo come in toto negativa, e in realtà insomma non è così, e anche da questa crisi io rimango positivo, penso che ne usciremo. Chiaro che poi con il sonno, Nicoletta, c'entra anche molto il troppo schermo, lo sappiamo, quindi stare troppe ore davanti al computer, davanti alla televisione, peggiora il sonno, così come ovviamente ha un effetto sul sonno anche un utilizzo non esclusivo dell'ambiente in cui dormiamo, cioè in una casa per esempio piccola in cui si sta chiusi per giorni e giorni, le barriere tra camera da letto, salotto eccetera magari iniziano a essere meno chiare, e questo crea anche una diversità, cioè se io passo la giornata disteso a letto a guardare il computer per esempio, poi quando certo. devo andare a letto per dormire non funziona così bene, ecco. Quindi Filippo, compiti a casa, dato che restiamo a casa, pianificare sì. la giornata dandoci quindi degli orari, possiamo dire così? Sì, io è una strategia che io consiglio indipendentemente da questa situazione, di costruirsi dei blocchi nel corso della giornata. Non consiglio di farlo di settimana in settimana perché poi diventano molto teorici, ma la sera prima dedicare 5-10 minuti di tempo a organizzare la giornata successiva, cioè che cosa faccio dalle 8 alle 10, cosa faccio dalle 10 alle 11, quando rispondo alle mail. Ovviamente per tutti quelli che in questo periodo, tra l'altro che sono tanti, si trovano a lavorare a casa, ancora di più questo è valido, perché non può diventare una giornata trascinata senza dei compiti specifici. Quindi i blocchi di lavoro aiutano anche a essere più concentrati e a produrre meglio, no? Questo è un punto secondo me molto importante. E poi Nicoletta, un'altra cosa di cui abbiamo parlato molto spesso assieme è l'importanza di mantenere anche un blando esercizio fisico regolare a casa con un materassino. Guarda, ti dico solo questo: Nelson Mandela, che di resilienza e di prigionia ne sapeva qualcosa, 27 sì. anni di carcere, ha corso 27 anni tutte le mattine un'ora fermo sul posto, tutte le mattine per 27 anni. Dunque, possiamo fare anche noi qualcosa, perché sappiamo sì, che l'esercizio fisico aiuta Filippo, anche la psiche, no? Ne approfitto per ricordare che oltre ai consigli di Filippo sulla pagina di Obiettivo Salute trovate anche gli esercizi suggeriti da Viviana Ghizzardi proprio per mantenerci in movimento, e se, come diciamo noi, siete ballerine dentro, le coreografie di Beatrice Carbone. Filippo, io ti ringrazio, ti leggeremo naturalmente anche, ti seguiremo nei tuoi canali, ti leggiamo anche con i consigli che lasci per gli amici di Obiettivo Salute insieme a voi. Ti auguro una buona giornata e tanti auguri, ci sentiamo buongiorno. Presto. Buongiorno a tutti, grazie. Naturalmente sulla pagina di Obiettivo Salute cosa troviamo? Ma troviamo le ricette, le indicazioni, i consigli del nostro medicuoco quasi cuoco. Eccolo qui, buongiorno dottor Erzegovesi. Pronti, buongiorno Nicoletta. Pronto, eccomi qua, è pronto in tavola? Non ancora, stiamo cucinando. Non ancora, ma questa esplorazione che abbiamo fatto questa settimana dei metodi di cottura, anche oggi è un metodo di cottura che viene spesso così trattato male, quindi la stufatura, no? Quindi essere stufati, sì, o stufi non ci richiama infatti, qualcosa ma anche di appetitoso. Infatti, bollito e stufato sono espressioni che si usano ieri, anche... E stufato oggi. In realtà la stufatura, che vuol dire in sostanza una cottura molto semplice che comporta un dispendio di tempo bassissimo, perché si tratta di prendere una verdura, farla a pezzetti, metterla in una casseruola, mettere un coperchio, aggiungere un goccio d'acqua e sale, quindi una cosa estremamente semplice, poi fuoco bassissimo, si presta molto bene per tutte quelle verdure che il nostro palato, proprio da un punto di vista psicosensoriale, considera un po' ostiche, che sono le verdure con una quantità di fibra abbastanza spessa. Quindi pensiamo, come ad esempio, radici, finocchi. I finocchi, le carote, le rape, piuttosto che i carciofi, piuttosto che le zucche. E quindi il fare una stufatura lenta con una tecnica che è molto usata nella cucina kosher, è una tecnica molto intelligente, perché si tratta semplicemente di aggiungere quel tanto di acqua che basti per poter fare del vapore e quindi che faccia una, sì, cottura che alla fine è una sorta di cottura a vapore, ma dove non si perde neanche un grammo di vitamina, minerale o antiossidante, perché resta tutto assorbito all'interno della verdura. E in questo modo la cosa anche ancora più interessante è che tutto quello che normalmente può essere un po' ostico, anche un po' amaro come sapore, guadagna tantissima in dolcezza. E quindi, visto che noi promuoviamo la gentilezza e la dolcezza, dice, cogliamo questa occasione. Allora, preparerò i finocchi con questa tecnica, dottor Erzegovesi, e domani le dirò. Le farò sapere. Grazie al dottor Erzegovesi, a Peter Bescapè in regia la parte tecnica, a Laura Vanossi che oggi è in assistenza oltre che in redazione. Buona giornata.